salutato loro, c'è Franco che era al telefono, c'è Gianni, c'è Natalino. Ok, io devo staccare perché sto mettendo i piatti. Ci sentiamo, ciao, riprendi. Ok, ciao, ciao Max. Ma non si sa mai, sai, quei baracchini possono mandare delle armoniche e vadano l'altra frequenza dei 10 bit, è meglio restare un po' più lontani. Allora, ci sentiamo, ciao ciao. Ciao Marco, ciao Giulio, dai, riprendi Giulio. Ciao Gianni, buona passeggiata. E io girare la sogno. Fai bene, fai bene. C'è bisogno anche di fare un giretto, ne abbiamo bisogno tutti. Hai visto che c'è il cancello, usciamo. infatti, così va bene, va bene, però sempre con prudenza. L'altra notte sono andato a Plaza Mona, l'ho visto, mi ho fatto di già al freddo, va così bene, c'era questa dieta fresca, ma non c'era freddo, là, si stava bene. Con la stagione estiva, la passeggiata più bella si fa la sera verso il mare, non certo durante il giorno quando c'è il soleone, per carità, pessima la situazione sarebbe, ma la sera quando ormai il sole soprattutto è tramontato, allora si sta benissimo. E io sto lottando una cosa sfornare che è così tutta gruppata, è strano. Vabbè, ancora il tempo non è che sia stabile, ci vuole un po' di tempo ancora per stabilizzarsi come si deve, poi ci lamenteremo anche perché ci sarà troppo caldo, per cui lasciamo fare, dai. Cava. Comunque qua, io adesso sto andando verso Luna e Sole, ero a Sorso, dalla zona di Sorso. Adesso sto andando verso Luna e Sole, mi fermo al quadrato, un pochettino, e poi vado a prendere la mia compagna al lavoro. Ho capito. Posso immaginare dove eri in quella zona. Va bene, va bene. Sì, va bene, al quadrato lo stesso, si sta bene la sera, al fresco si sta bene ugualmente. Ciao, ragazzi. Ciao, Giulietto. Eccomi, buonasera Giulio. Ciao Franco, ciao Natalino. Natalino, so se mi hai ascoltato poc'anzi quello che ha detto Marco. Occhio, eravate vicino ai 10 metri, non si sa mai, qualche armonica invade con la frequenza. È meglio tenersi un pochino più distanti, Natalino. No, era una prova solo per, abbiamo detto due parole e ce ne siamo tornati, che era una prova per vedere se funzionava l'apparecchio, non è che mi metto a modulare l'inno. Quello l'ho capito, ma sai, tante volte uno può anche fraintendere, anche se è una prova, che eravate a 27.975, per cui a un millimetro dai 10 metri. Va bene, ciao Franco, avanti. Sì, eravamo proprio sul filo del confine, sopra mura secco eravamo, ah sì, uno dice abbiamo fatto dei test e basta, dai. Ok, Gianni Lubrofetta c'è ancora o è andato via, che mi sono perso qualcosa? No, c'è Gianni Lubrofetta, io non l'ho sentito. Avanti Gianni. Ehi, dai, ciao Franco, ben sentito anche a te, dai, di nuovo. Dai, sono in macchina verso il Ponte Nuovo, mi trovo. Sempre segnalone, sei sempre sul 920-930. Cappa, va bene, dai, un impianto fatto bene, va bene. Ma sei liscio? Liscio. Una bomba con l'antenna. Sono ruzzento, ma. Come ti sono ruzzento? Come si chiama? L'S980 della Magnum. Una ventina ce li ha? No, non c'ho nessuna pastiglia, dai, dietro. Ma dico, quanto era? Una ventina? Eia. No, ultima antenna, quindi. Anche di più. Gianni, anche di più di 20. O una trentina, vorrei dire. Vabbè, comunque. Va bene così, ottima radio e ottimo segnale. Avanti, già. No, l'ho misurato col metro da 20 fa. Ehi, vabbè, ma niente. Avanti, Natalia. vedi, con 2,5 fatti non va bene. Io sono veramente con 2,5 fatti. Va benissimo, certo che va. Tanto che quasi Santiago Nobre, la radio è l'ultima. Meglio di così, va più che bene, dai. Natalia, non c'è problema. Avanti, Franco. Ehi, avevo chiesto se Gianni Lubrofetta ha chiuso. Ma non lo so perché io non l'ho sentito proprio, Fra, hai una radio spettacolare, raga. Si sente fortissimo anche in lontananza. Adesso vedi, io ti sto perdendo il segnale, dove sei? Adesso io sono esattamente più avanti del bullying, dove c'è la rotatoria. Adesso sei sceso proprio a zero, eh. Sono in mezzo ai palazzi. Guarda come arrivo io, Fra. Guarda a te, Natalì. Guarda come arrivo io. Bene, bene, Natalì. No, io adesso mi sto andando verso via Luna e Sole. Sto andando quella zona lì. No, a Franco stavo dicendo. Stavo dicendo a Franco a vedere come gli arrivo adesso. No, guarda, Natalì, meglio di così penso che non si possa. Chiarissimo, ecco Aro. È il segnale. Prova. Guarda il segnale. Sì, leggermente più su del 9.30. 9.32, dai. In cappa, vabbè. Oh, più che bene. Questo è quello con quello di Viattina. Ah, con Tina Turner. Sì. No, no, canta bene, canta bene. Avanti Giulio. Ok. Canta bene sì, altro che voce bella, chiara, prepotente soprattutto. Va benissimo, Natalia, non c'è problema. Ma se proprio voi ho lo schema della modifica delle 24, se ti interessa, Natalia, te lo posso spedire tramite WhatsApp, se proprio ti interessa. Se poi non ti interessa, non fa niente. Va bene, avanti Gianni. Ne avevo due di MB più 4, questo era in scatola e l'altro l'ho dato a coso, a Antonio l'avevo dato. Ok, ho capito. Ah, vabbè, no. Visto che ce l'ho, io non ce l'ho da tanto tempo quella segnato dove appunto si deve fare la modifica, ma non è vera la ragione comunque perché si debbano modificare i microfoni, perché chi li ha costruiti ne sa sicuramente più di chi li modifica, questo è scontatissimo, ne sono più che convinto. Avanti Fra. La modifica in cosa consisteva? Cosa gli cambiava? I toni? Giulio? Più forte, c'è di amplificazione. Ti ha risposto da Tarino. Ah, ho capito. No. Invece su questi, vabbè, questo non difficilmente lo toccherò. Ce n'era una modifica sullo sciure? No, questo sarebbe il sacrilegio toccare lo sciure, quello è straordinario, veramente. Forse è il numero uno. Forse è il numero uno come microfono. O perlomeno ci sarà quanto lo sciure ci sarà tarne, ma sicuramente lo sciure è sicuramente di primissima classe, non ci sono dubbi. Lo sciure va bene, è abbinato al Saturnecco. Se tu metti lo sciure batte anche il Turner, perché io ce l'avevo e ho provato il Turner più 2, il Turner più 3 e lo sciure. Beh, attaccato al Saturnecco era meglio lo sciure di tutti. Non lo so, no, infatti era solo una curiosità. Mi hanno detto anche di provarlo sul valvolare, soltanto che non l'attacco è uguale, ma ci deve essere qualche inversione nelle polarità, dai, qualche polo invertito, qualche cosa cambia, non va bene. Pazienza, dai. Vediamo un po' se c'è Gianni doppio rumo. Gianni, io non lo sento più. Neanch'io, evidentemente ho sceso dalla macchina. Ma quando vuole entrare è sempre ben accetto. Ok, io mi sono fatto un po' di DX, uno mi ha fatto anche la QSL, poi ho buscato il programma io e me la sono fatta io, gliel'ho mandata via email e anche lui me l'ha mandata via email, questo di Trapani, questo qui. Ti ricordi, l'altra sera stavamo parlando con, come si chiama? Fanteleria? Quando ieri sera mi sembra li sentivo di nuovo, non so se fossero sempre loro o se fossero altri, però li sentivo benino di nuovo, Avanti Giulio. Ok, quel giorno che eravamo insieme, parlando con Fanteleria, sì, beh certo. Quando si apre la preparazione va benissimo. Allora, Natalia, con chi l'hai fatta da queste L, con i Trappoli, forse Salvatore? Te lo dico subito, con chi l'ho fatta. Allora, Fabio, aspetta, Robert, si chiama Robert di Trapani, 1WM035. Ok, vabbè, no, pensavo che fosse Salvatore, oppure Fabio, uno dei due, va bene, dai, va bene così. Ok, va bene, oggi arrivavano fortissimo, anche stamattina, sul 23 io li sentivo, ma poi c'era la portante, si sa, addirittura stavo mettendo la portante a quelli che vanno con la propagazione, quando io non c'ero, si può immaginare. Per carità, pensavamo che fosse finita, invece a volte ritorna così questa qua. Ma cosa vuoi che ti dica? Io ho fatto Alessandro di Agrigento, Fabio di Roma, Michele Palermo, Gianni di Bari, Antonello Bolsena, Salvatore di Catania, era forse questo Salvatore, e Alessio di Pisa. Salvatore di Catania ce l'ho anch'io qua, mi ha mandato anche i saluti per Gigi Vulcano, che sarebbe questo Salvatore di Catania Espresso 50, è lui? Il nominativo non l'ho segnato, stavamo facendo un QSO così, non ne stavo facendo di ex, capito? È questo che me l'ha mandata via email, questo Robert, capito? E allora gliel'ho mandata anch'io, ho buscato il programma per farmela e gliel'ho mandata, tutto col computer, no? Che programma è? QSL Marker si chiama, e te la fai tu, no? E le mandi via email, oppure te le stampi in cartoncino e le puoi anche spedire via posta. Perché l'altro giorno uno, aspetta, no, me l'ha mandata con Facebook, ha voluto l'indirizzo Facebook, e quindi io ho visto tutta la sua pagina, la sua stazione, mi ha fatto vedere tutto, dai, avanti Giulio. Ok, però io Facebook non ce l'ho, per cui non mi è mai interessato. Ormai su YouTube sì, invece su YouTube ho dei contatti con delle persone che di tanto in tanto ci faccio QSO, così va bene, dai. Ma non solamente per la radio, ma anche per altre cose. Va bene così. Avanti Natalia. E così sia. Io mi ho fatto quella QSL lì col mio nominativo, no? Una QSL semplice ho fatto, se voglio scatto una fotografia, c'è una macchina fotografica qua, che è qua, è paurosa. Faccio una fotografia di Sassari e gliela mando, volendo, no? Puoi fare tutto col cellulare? Anche col cellulare lo puoi fare. Poi riversi tutto sul computer e te lo fai sul computer, col cellulare viene male. Mi c'è preparazione sotto? Sì, stai iniziando di nuovo la preparazione. Sì, io ce l'avevo tanti anni fa, tra queste del personale, Natalia, con la Sardegna, c'era la Sardegna disegnata e poi c'era il punto di riferimento dove ero io, con l'antenna, eccetera, eccetera. Una radio con una persona che ci parlava tutto lì, con le cuffie eccetera, e c'era la località e tutti i miei dati, no? E allora in quel periodo avevo la casella postale, ce l'avevo a Florina, tutte le settimane andavo e ritiravo la posta, ritiravo, perché a Sassari le caselle postali non ce n'erano, vuote, e allora ne avevo trovata una a Florina e l'avevo presa insieme a cosa, mi sembra, se ricordo bene, a Bruno, adesso non voglio dire una fesseria, ma mi sembra che era Bruno che sera il mio socio della casa da posare. Avanti, è Natale. E K. E adesso usano quelle elettroniche, le mandano via email, capito? Gli dai l'indirizzo email, io mi ho fatto un account email col mio nominativo, così me le mandano solo lì, capito? Vedono il mio nominativo, mi mandano lì la roba, io la ricevo e mando a mia volta. Ma ti avevi dovuto creare un'altra mail oppure utilizzi la tua mail personale? No, mi ho creato un'altra email col mio nominativo. Hai capito? Ho capito, no, quindi va bene, perché non pensavo, per non avere casini poi sulla tua mail personale, quindi meglio usarne una esterna. Infatti, se pure voglio provare col Superstar 3009, voglio provare a vedere cosa riesco a combinare. È più potente? No. Claudio, c'è ancora? Sono andato via poc'anzi. Dice che ci ascoltava, magari sta tagliando l'erba sicuramente. C'è in fretta a metterla? Già si era pigliato la pentola. Mamma mia, quando avete ieri in campagna, convinto che avete piovuto un po' di più, almeno come Sassari, ha giubilato una truscia di Biuvaro che, oh via, si vedevano solo gli occhi, per carità. Sì, infatti, no, adesso magari non starà crescendo, starà facendo rifiniture, lo sai, in campagna c'è sempre roba da fare, e si sarà spostato per quello, ma come arriva vicino all'apparato già entra a salutare. Sì, avanti Giulio. Ok, infatti se dovrebbe mettere uno spalleggiabile, così almeno parla volando e parlando con noi, sarebbe bello, no? Così lo seguiamo in diretta anche mentre lavora, sarebbe una bella cosa. Claudio, entra a salutarmi almeno se non altro, io non lo sapevo che tu eri in ascolto, sempre che tu ci sei in questo momento, io comunque ti saluto. Vabbè, dai, 5 secondi di bianco per vedere se entra Claudio e dopo vai tu Natali. No, io ci sono sempre, vi ascolto in lontananza ma non posso parlare perché sto facendo cosa. Ciao Giulio, grazie dei saluti. Ciao a tutti di nuovo. Ciao Claudio, una spalleggiabile che devi comprare, così quando stai lavorando puoi anche parlare con noi, così ci godiamo la tua opera da cosa, come si dice, vabbè, non so che mestiere sarebbe quello che fai lì in campagna, in diretta, così almeno ci godiamo la tua attività in diretta, vai ancora qua e non scappare così in fretta. No Giulio, vi ascolto perché la radio è accesa, quando c'è gente io vi ascolto, ma non posso parlare, sto facendo cosa, sono sempre impegnato. Un abbraccio a tutti, ciao. Ciao cara, non sapevo che era d'ascolto, vai Natali. Ehi, ci siamo sovramodulati evidentemente. Sì, sicuramente. Ma sai come va bene o giù? Hai presente l'autolavaggio? Quell'affare che, come si chiama? Che ti manda giù l'acqua dall'alto, no? Dal centro, che ti fa il giro attorno alla macchina. Una cosa del genere, al centro campagna, e il microfono te lo porti dove vuoi. Quello sì, è vero, ma allora se dovrebbe prendere anche un ombrellone grande per non bagnare un microfono. Di quelli grandi, come ha fatto una volta un tifoso che è andato alla Torres, c'era la partita della Torres il giorno, io parlo di tantissimi anni fa, arriva questa persona, sicuramente era uno che lavorava in campagna, non so, forse era un pastore, e aveva uno di quegli ombrelli grandi, quelli che usano i pastori, no? Quando vanno a pascolare, eccetera, grandissimo. Appena l'hanno visto tutti quanti gli hanno preso a fischi, e lui, fregatevene, fra un po' rido io. E cosa è successo? Quando dopo lui aveva capito le condizioni del tempo quali erano, tutti sono scappati perché è cominciato a piovere in una maniera così esagerata che solo lui è rimasto in tribuna con quell'ombrello e non gliene fregava niente della pioggia forte. Sì, ce l'avevo anche io l'ombrello, poi alla fine al lavoro qualcuno gli si è attaccato a mano, me l'avevo regalato in gallura un collega, quindi proprio la pastora con le canne, con la canna di bambù, con le stecche in bambù, lì ti metti sotto e non ti bagni, assolutamente. E ha fatto fine brutta, dai. Avanti Giulio ancora. Lo verde, Ehi, verde ormai col rosso. C'era anche la camera d'aria in punta per non marcirsi la parte iniziale sopra, diciamo, dove c'è la punta dell'ombrello. Facevano un disco con un foro al centro di camera d'aria e lo mettevano sopra, affinché l'acqua non cadesse mai sulla parte iniziale dove si marcisce in genere, dai. Era anche, come si dice, fatto bene. Io ero grido, visto di Rimasori, è fatta apposta. L'ombrello verde, me lo ricordo ancora che i pastori ce l'avevano, certo, quelli sì che sono ombrelli. Già lo credo, ma tutti quanti lo prendevano in giro quando l'hanno visto arrivare con questo ombrello, perché in quel momento non stava piovendo e lui non vi preoccupate, fra un po' già vedo io, non ci è passato molto, non ci sarà passata facendo una mezz'oretta, attacca, piove, ma piove però, e che razza di acqua mandata proprio con tutta la forza di Gesù Cristo, era arrivata quell'acqua. Solo lui è rimasto sulla gradinata, seduto, tranquillo, guardando la partita, per carità. Tutti sono scappati, perché tutti quanti erano convinti che non pioveva, nessuno aveva l'ombrello. E tu pensa che prima non è che ci fosse il cellulare con un meteo appunto di Timmy, quindi sicuramente era anche bravo a aver previsto quella pioggia. Lui sicuramente è una persona abituata a quelle cose, capiva quali erano le condizioni del tempo solo guardando il cielo, sai, poi non c'era meravigliarsi perché le partite di calcio di solito si giocano d'inverno, per cui per lui era un gioco capire quanto tempo mancava per piovere, e allora lui era ben organizzato con quell'ombrello lì, non ha avuto problemi. Tutti gli altri ce l'hanno avuto, che sono diventati dei puccini, tutti correndo come pazzi, scappando. Vai, Natali. Adesso ti faccio vedere la QSL giù, gli faccio la fotografia un attimo e te la mando. Va bene, Natali, già è acceso qua. Il cinematografo già è acceso, manda pure, non c'è problema. Vai, fra. Come dicevano, ride bene che ride ultimo, quindi hai azzeccato quel proverbio giù. Sì, tanti proverbi che si usavano prima sono azzeccati, ma tanti veramente. E quello era uno di quelli azzeccatissimo, certo. E vabbè, comunque, lui era sicuramente un uomo pratico che capiva le condizioni del cielo, com'era, e sapeva quando poteva esserci l'acqua in arrivo o meno. E così è stato. E vabbè, comunque. Però l'abbiamo preso in giro, poi che motivo c'era di prendere in giro quella persona non lo so, ma lui era ben zavorrato, per cui non gliene fregava niente. È tranquillo. Riprende ancora la fra. Qualcuno sta chiamando italiano. Mio nonno diceva, aspetta, ci mi ricordo qualche proverbio. Uno era oggi rugio e sole, carra linna va sole, cioè se vedi il sole rosso la sera portati la legna a casa perché il tempo c'è per girare. Poi abba e sole, trigo a montone, questi sono quelli che mi ricordo. Sì, anche quello. Abba e sole, trigo a montone, sì, è vero. E vabbè, ce n'erano tanti, ed erano tutti detti praticamente, quasi tutti parlati in sardo anche, che io tra l'altro non so parlare, anzi diciamo che faccio anche fatica a capirlo tante volte, a meno che non sia un sardo o una lingua usata proprio dalla gente vicinissimo a Sassari, ma se incominciamo ad allontanarci un pochino, soprattutto la lingua barbaricina, ui, che cosa capisco? Niente, o quasi niente, solo alcune parole e basta. Vai, fa. E io insomma mastico un po' tutto, un po' anche l'algherese, che è quello che mi ha dato un po' di mattare, un po' di fastidio all'inizio, però ormai non dico che lo capisco tutto, qualche parola la assorbio anche, la rovino parlando, però insomma mi difendo un po' là, un po' anche gallurese, in base a dove ho lavorato qualcosa l'ho assorbita come una spugna, dai, avanti ancora Giulio. Un attimo, ci sono anch'io. Ecco, poc'anzi ti ho rilanciato ma non c'eri. Perché ho trovato un vecchio amico CB si è fermato e mi sono fermato a parlarci, dai. Natalino, ancora c'è? Sì, sì, stava mandando un qualcosa con WhatsApp, una QSL. Vediamo un po', Natalino, ci sei? Per Gianni? Sì, ci sono, aspetta un attimo che sto provando con questa macchina fotografica del telefono che mi sta assillando. Natalino! Dove sei già? Al quadrato! Natalino, sei con chi ero fermo? Con Salvatore! E Salvatore chi? Quello grosso? Quello che veniva a te a fare di ex. Ah, cazzo. Sta chiamando qualcuno poi di preparazione, lo sentite? Ehi, io lo sento. Sì, ma non si capisce quello che sta dicendo, forse è straniero. Sì, sì, no, stavo immaginando Salvatore, adesso stavo pensando, Salvatore è quello del trattore o Gianni, invece no, non è lui. Com'è a proposito il nominativo di Salvatore, quello del trattore? Non mi ricordo. Bobone! Com'era Bobone, così? Eia! Non me lo ricordavo proprio, non me lo ricordavo proprio, vabbè dai, comunque. Facciamo una volare a Natalino che sta facendo il fotografo. Avanti, è bravo. Io te l'ho mandato. Ah, adesso guardo se è arrivato, dai. Sicuramente Gianni ti arriverà bene lì da te, Giulio. Sì, Santiago 8 sta arrivando, la radio è buona. E come mai così basso? Lì zona alta, quadrato. Sì, ma io sono in basso però. E dunque, e poi in macchina va più che bene. Con quel segnale arrivare qua va più che bene. Pensavo più forte, dai, che fosse una zona positiva. C'è stato un break, boh, forse sempre di propagazione. Avanti break. Avanti break. Avanti break, la Sardegna che ti ascolta e ti rilancia l'antenna. Avanti l'amico da break. Sono bassi ancora, dai. Vabbè, dai. Comunque, è arrivato benissimo qua con una modulazione forte. Vediamo un po' questo coso che mi ha mandato Natalino. Ma niente sei Gianni? No, sto mangiando la cingomma! Sentivo che... E poi quella roba, come va il piedino? Come va il piede? Ah, il piede, no, pensavo se si c'era a me. Già ha migliorato. C'è solo il dito che è un po' rosso, ma tutto adesso si è sgonfiato e di nuovo bianco. Bene, e la propagazione come la senti? Io la sento forte qua, la propagazione. Sei aperto lì. Mi hermano de Vasco, sia la Sardinia, adelante, me lo comprendido, gaba. Ma non li capisco, dicono c'è QRM in mezzo. Neanche qua il segnale 0101, però ho sentito break Italia, le parole così più facili da capire, il resto no, zero neanch'io. Ma qua è basso però, il segnale è molto basso. Gaba. Come ti arrivo lì, agganciato? Prova, 1, 2, 3, prova. 6-9, dai. Guarda adesso, così, liscio. Ehi, si è varato un bel. Adesso sei 4, 5. Come te, dai, qui mi arrivi 3 qua, con picchi positivi però, La radio è sempre buona però. L'ho visto Natalì, l'ho visto quello che mi ha mandato. Sul tablet te me l'hai mandato però. Quello che ho io ti ho mandato il numero. Quello mi ha dato e te l'ho mandato. Sono due, perché le ho stampate, no, e ne sono uscite due. Vabbè, già li ho visti. Ma lo stesso, non importa. Vabbè, lo stesso, Natalì. Anche se sul tablet, va bene. Io di solito quando ti mando i messaggi te li mando dal telefonino, però va bene lo stesso, non c'è problema, è uguale per me. Anzi, arrivano più grandi, perché il tablet è abbastanza grande. Avanti Gianni. Gaba, dai, sto aspettando se c'è qualche cosa. Per vedere se riesco a parlare con Furi, ma mi pare che casina, non ha gana. Prima di andare alle 7:30 a prendere lì, devo farmi un DX. 27685, prova, USB. No, sto qua con voi. Se capita, se ho pazienza, Natalì. Si voleva DX con l'Italia. Poi se vai sul canale 12 c'è la chiamata internazionale. Lo so. L'altro giorno c'era uno che stava facendo un discorso, questo sembrava come noi parliamo sul 10. Ma ti diceva spostarsi, no? Non la voleva capire. QSV. Avanti giù. Vabbè. Alle volte si dicono tante cose. E si fanno anche, però. Vabbè, lo stesso, non c'è problema. Stamattina c'era una bella preparazione, stasera magari no, ma stamattina era veramente ultima, veramente. C'erano certe modulazioni, io ne ho agganciato qualcuna, poi mi sono stancato anche perché eravamo vicino all'ora del pranzo, dunque ho dovuto lasciare. Infatti Natalia si è chiamato più volte, anche su canale 10, ma tu evidentemente non c'eri, o perlomeno stavi pranzando, erano mezzogiorno e 20, mezzogiorno e mezza, una cosa del genere, Natalia. Aspetta, vado a vedere nei canali altri se ce n'è. Ok. Natali, mi hai seguito? Io sto facendo cosa? Mi ascolto. Riprendo dopo, dai. Riprendete voi, per il momento sono impegnato. Ho capito, va bene, dai, devi mangiare, meglio compreso, fai bene. Buon appetito. Avanti Gianni. Natalina a quest'ora mangia. Giulio, Italia-Turchia c'è sul primo canale oggi? Sì, stanotte si collegano alle 8:30, stanotte vediamo la prima partita e vediamo un po' se l'Italia riesce a risollevarsi rispetto all'ultimo europeo, alle Batichifu. Speriamo bene cosa avete detto. Facciamo tutti i tipi per l'Italia, ma però non mi illudo assolutamente. Comunque suppongo che nei primi quattro possa starsi anche l'Italia, dopo la Francia, soprattutto dopo la Francia, e magari anche il Portogallo. Avanti Gianni. E io non lo so se le guardo. Magari l'Italia la guardiamo, dai, perché io di calcio blu non mi piace, però l'Italia la guardo per fare il tifo, dai. Beh, certo, se a uno non interessa va bene, ma intanto sai cos'è già, soprattutto quando ci sono le partite in televisione, non è che c'è di meglio, allora io che lo seguo il calcio, diciamo che mi fa piacere guardarla e soprattutto spero che l'Italia possa fare una bella figura. Non sono convinto che possa vincere, questo no, assolutamente, però sai, non si sa mai. Abbiamo fatto un pre-campionato europeo abbastanza buono, l'abbiamo fatto, ma questo non significa che possiamo essere dei vincitori, assolutamente. Io sono sempre sono sempre convinto che la Francia è un gradino o due gradini più su. Speriamo bene, cosa volete dire? Avanti già. E vinca il migliore! Ah, questo sì, questo è quello che si dice sempre quando si guardano le partite oppure gli avvenimenti sportivi. Vinca sempre il migliore. Interessante che tutto vada bene e soprattutto che la gente che va sugli spalti, che siano intelligenti, da essere prudenti per il fatto dei contagi, perché ci sono 15.000 spettatori hanno consentito di poter partecipare alla partita. Speriamo bene che non si ammassino e magari si contagiano, sai, può succedere, no? Speriamo di no. Riprendi ancora già, dai, non so se Franco è rientrato, eventualmente lo lanci tu. Vai Gianni. Mi sembra che siamo rimasti in due soli, vero Giulio? No, sì, vi sto ascoltando, no, sono entrato subito. Ah, riprendi fra. C'è il Presidente della Repubblica oggi pure, mi. Vabbè, anche se non c'è lui lo vediamo lo stesso, no? Non c'è, perlomeno a me personalmente non me ne frega più di tanto che ci sia lui o meno. Figurati. Perciò se poi c'è, va bene lo stesso, problemi non ce ne sono, ma a me interessa vedere la partita, non certamente vedere se c'è lui presente o meno, quello non mi interessa proprio. Avanti fra. Beh, forse vuole dire qua ci porta fortuna, come ti ricordi quell'immagine di Pertini in piedi in tribuna. Sì, ma quelli erano campionati del mondo, campionati mondiali quelli erano il 1982, quando eravamo parecchi anni più giovani di adesso. Eravamo quasi giovanotti, di mezza età insomma, ecco. Vabbè, avanti Gianni. Gianni. Dai, io vi saluto, dai, che smonto tutto e devo andare a prendere Elena, dai. Ci sentiamo alle prossimine, ragazzi, statemi bene, grazie per il question. Ciao, ciao Gianni, alle prossime, un abbraccio. Avanti Natalino. Ciao Gianni, alle prossime, dai. Ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime. Sì, è così. E tu la guardi la partita, lo segui tu il calcio, fra? Ma sì, lo seguo, mi piace, le belle partite me le guardo, quasi sempre, a meno che non ho altri impegni, però se ho la serata libera me la guardo. Io il calcio l'ho sempre seguito, da sempre, da quando ero ragazzino, anche perché l'ho giocato per anni, eccetera, eccetera, anzi mi ero anche fatto male abbastanza ad un ginocchio, che poi già sono guarito bene, per fortunatamente. Però non sono fanatico, no, non me ne frega niente, anche perché ho fatto tantissimi anni di sport, prima al calcio, poi ho fatto tanti anni di atletica leggera e dunque capisco il mio medesimo cosa significa praticare lo sport. Insomma, diciamo che senza nessuna presunzione lo giudico quasi con cognizione di causa, dall'interno, per così dire, visto e considerato che io ho fatto tantissimi anni di sport. Vai fra. Capo, anch'io da ragazzo ho giocato al calcio con dai mini giovanissimi, dico, il Villa Gorizia, e poi basta, poi giovanissimo, cose varie, poi ho abbandonato. Anch'io soffrivo un po', mi strappavo in fretta i muscoli, caspiti, i quadricipiti, minchia. Se non mi scalavo bene all'inizio mi rovinavo sempre. Ho capito, no, io avevo avuto una distorsione al ginocchio destro e mi avevo lacerato i collegamenti, i legamenti collaterali del ginocchio destro, e sono stato un anno e mezzo dopo, non un anno, un anno e mezzo, poi col passare del tempo già sono guarito perfettamente. Però nel frattempo, dopo che sono guarito, ancora avevo qualche postuma dell'incidente del calcio, e per fare un po' di fisioterapia sono approdato in una palestra di atletica leggera, dove c'era una persona che era un bravissimo anche massaggiatore, e lui mi ha completato la guarigione. Da lì mi ha convinto a fare l'atletica leggera, e ho fatto la marcia, per tantissimi anni, anche a livello nazionale. Bene, invece con il calcio che ruolo giocavi? Io allora si usava di fare il centro mediano, io ero centro mediano metodista, non come oggi magari è libero, dai, oggi stopper, anzi, dunque è diverso, prima era tutto un sistema diverso di giocare al calcio. Un'altra volta mi aveva infortunato Bisiacchi della Torres al Malleolo, mi aveva dato un calcione a piede sinistro, e sono stato mezz'ora coricato per terra. Bisiacchi è arrivato Mattella, perché noi, la mia squadra, stava allenando la Torres, che allora la Torres si trovava ai 16, si trovava. È arrivato Mattella, l'ha preso, l'ha sgridato, l'ha mandato subito immediatamente negli spogliatori, l'ha mandato via. Ha detto, non ti vergogni, io ero un ragazzino, avrei avuto 17 anni, 18 anni, una cosa del genere. Lui era un uomo grande, cioè, un armadio a quattro volte. Bisiacchi, mi ricordo benissimo, come se fosse lui. Avanti fra. Io giocavo da libero davanti alla difesa. Anche a me, mi ricordo una volta questo tipo, forse era in giornata, io era un po' messo male lui quel giorno, perché era anche un campioncino, allora era, insomma, stava emergendo, e comunque non gli ho fatto toccare, anzi ogni contrasto lo perdeva e andavo via con la palla. Alla fine, mentre stavano andando via, mi mette questo sgambetto, mi sono distrutto in terra, avevo consumato, vabbè. Infatti, di poco, vabbè, non dico che veniamo le mani, ma quasi. Ok, beh, certo. E da quel giorno col Bisiacchi, siccome la Tella, che era l'allenatore allora della Torre, l'ha mandato via dal campo, ha detto bene il spogliatore, vai ritirati da adesso e vergognati. Ha detto quel ragazzino ti sta facendo una cortesia perché ti sta allenando, eravamo in una partita infrasettimanale, no? È venuto qua per allenarti, non per distruggerlo come stavi facendo tu, per cui ti puoi immaginare. Questo deficiente poi, tutte le volte che mi vedeva, ce l'aveva con me, io ero un ragazzino, questo lo ripeto, avrò avuto 17-18 anni, e mi ricordo una volta che mi sono trovato lì al bar della Torres, che c'era su all'angolo di via Roma, io andavo spesso lì, no? Perché avevo molti contatti con i giocatori della Torres, Bisiacchi, Vipri, Campos, tutta questa gente qua, no? Era quegli anni lì. Tutte le volte che mi vedeva mi diceva cosa. Un giorno ha preso le mie difese a lì fuori, a voi non ti permettere mai più, dice, di sommare Giulio, perché se tu la prossima volta che ti permetti di sommare ti faccio la faccia più grande del pallone, gli ha detto a Bisiacchi. Mai più si è permesso. Fuggi era uno tosso, quante Bisiacchi, forse anche di più. Sì, quando ci vuole, no? Caspita, poi visto che sei grande, devi avere un po' di rispetto anche di quelli più piccoli. Non è solo il contrario, caspita. Natalino, ci sei? Sì, io. Dai, mi sa che mi devo lasciare, dai. Devo fare una commissione, vediamo un po' cosa vuole fare la signora. Vi abbraccio tutti e due. Un saluto anche ai guerri ascoltori e così via. Salutiamo anche Claudio, se l'ascolto. Un abbraccio a tutti. Avanti Giulio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Un abbraccio anche a te. Ok, ciao, grazie per la chiacchierata. Ci sentiamo alle prossime. Vai da Tani per salutare a Franco. Ciao, Fra, buon proseguo allora. Ciao, Claudio. E così è stato, Natali. Sto continuando per un attimino quel discorso. A Fuggi mi voleva bene, non solo Fuggi, tutti mi volevano bene, Marzio Lippi, Colusso, Sebastiani che era un grandissimo giocatore della Torre, solo che aveva il vizio del bicchiere, però il suo lavoro, il suo dovere in campo lo faceva ugualmente. Erano altri tempi, quando la Torre si chiamava squadra, oggi si chiama una squadra di urti. Prima era una squadra vera, era una squadra di campioni, oggi è una squadra di Murcia, per carità. Non a caso sta lottando per non retrocedere, si può immaginare. E adesso al prossimo anno se rimane in Serie D giocherà anche con l'Uri, con la squadra di Uri, perché l'Uri è stato promosso in Serie D, si può immaginare. Anche di vedere siamo messi con la Torres o Natalì. E cosa vuoi? Si vendiano i giocatori, ma è forza, avete un giocatore come se lo vendiano, ma è forza so che sono livello. Allora con i giocatori bravi cazzo se li vendeva. Mi ha grido. Per carità, mi ricordo davanti a Parignameria passavo quasi tutti i giorni, passava Leonardo. Intendo Leonardo Campos, intendomi, il portiere, tutti i giorni si fermava a parlare con me, ti ricordi giù, e tante volte mi ha ricordato anche con la storia, ti ricordi Bisiacchi, e la Tella, e già lo ricordo, è un deficiente per conto mio, così è rimasto. Io non posso avere un buon ricordo di Bisiacchi, perché per me era una bestia. Ti sto facendo un favore, vengo lì ad allenarti nella partita infrasettimanale e tu mi atterri, solo perché io gli avevo fatto due volte consecutive il tunnel, cioè l'avevo scartato, no? A un certo momento scarto lui, scarto un altro giocatore sempre della Torres, è scartato prima lui, prima Bisiacchi e poi questo altro giocatore, lui nel frattempo mi ha girato e me lo sono ritrovato di nuovo davanti e l'ho scartato di nuovo, lui non l'ha potuto sopportare, allora mi ha dato una pedata proprio al malleolo e non te ne dico niente, sai, è un punto delicato, il piede, se posso garantire che se prendi un colpo lì sono dolori. Sì, me lo posso immaginare, lui non ha sopportato, gli hai fatto due volte il tunnel. Chi era bravo mio fratello, mio Angelo, mio cugino Natalino, quello che sta lì punti. Roberto già li ha conosciuti che giocavano nella Villiermi. Ok, sì, ma certo. Io giocavo con padre Roberto di Bumagina, cioè nello stesso campionato anche ho giocato. Quando giocava giovanino, lui vabbè è di 20 anni più di me, però io ero già un ragazzino e giocavo nel campionato che giocava lui. E poi da lì sono andato un po' avanti, ma poi ho avuto un incidente al ginocchio e mi sono fermato. Nel frattempo venivano quelli del Monteponi, allora si chiamava Monteponi, l'Iglesias, no, e quelli dello Chierese, dello Schinese anche, e di quelli dell'Alghero, venivano nel negozio dove lavoravo. Allora in quel periodo io da Pino Mu, Santa Maria, se puoi immaginare, facendo il mio primo mestiere, era da lì. Venivano addirittura i dirigenti e qualche presidente anche, soprattutto quello del Monteponi, che mi volevano ingaggiare e andare a giocare con loro. Ma io ho detto, guarda che sono infortunato, non ti preoccupare, ci curiamo, eccetera, eccetera. Ma intanto io avrei dovuto avere il permesso prima a mio padre, se mi lasciava andare lì ad Iglesias per trasferirmi lì, perché non è che potevo stare, e poi io dovevo lavorare qui a Santa, per cui non era possibile andare lì assolutamente. Poi avevo fatto anche provino per dubbio, avevo fatto e sono stato promosso, ma ripeto ancora una volta, non ho potuto andarci tutto a causa del lavoro, eccetera. Io ero un capo famiglia dei miei fratelli e prendevo anche gli assegni familiari per loro, in quanto mio padre era un po' invalido, e allora ho dovuto rinunciare anche a quello. Meglio lo travaglio giù che chi si cosi. Uno va a andare chi si cosi, va a aprire un campione, se no non ne cava bene. Meglio il lavoro giù. Beh certo, ma se fosse stato vicino allora sarei anche potuto andare, sarei potuto. Del resto io sono della classe di Vito Casu, buon'anima, che tra l'altro è comparso da poco. Lui infatti poi ha giocato con la Torres 16, io invece non ho potuto fare niente perché impossibilitato, anche perché poi avevo cambiato sport. Forse per ringraziare il massaggiatore che mi aveva curato la gamba, perché ripeto, sono stato un anno e mezzo dopo quando mi ero infortunato a ginocchio, non un giorno, un anno e mezzo dopo. E allora io per gratitudine ho voluto provare a fare la marcia, però non mi sono pentito perché ho fatto tanti anni, sono stato anche campione sando dei 10.000 metri, sono stato su pista e allo stesso tempo ho fatto anche gare a livello nazionale, campionati italiani compresi, e mi sono qualificato abbastanza discretamente, va? Infatti, io lo stesso ho fatto moltissimo sport e non c'era uno che mi stava picchiando a me al palazzetto dello sport. Invece di dare le tecniche come le doveva dare, affondava i colpi questo. Ti ha già ciappato d'incontro, ti ha già un pugno a faccia e l'ha già busato. Ma ne prima di induire arbitri, se no ammazzavano. Tu facevi cos'è, lotta greco-romana, mi sembra che, insomma, arti marziali, qualcosa del genere, adesso non mi ricordo di preciso cosa era. Sì, karate facevo, arti marziali. E io ho fatto anche il judo quando ero più giovane. Ho capito. Mio fratello è cintura nera di arti marziali, è più giovane di tutti, 60 anni, 61 per l'esattezza. Poi c'è anche mio genero, è campione di arti marziali. Anche lui sta ancora frequentando, però, lui sta ancora, anzi addirittura sta allenando anche. E io mi sono bicicchiato con Gavino Scanu e non ci sono più andato dalla volta perché era troppo illuso secondo me. Vabbè. Poi ho avuto tanti parenti, tipo ad esempio Lucio Poggi, che è Magliolino, Buggi, che grandissimo portiere, ma veramente grande, e tanti altri. Per non parlare poi di Pugilato, tutta la famiglia mia, tutti gli amici, cioè i nipoti di mia nonna, tutti quelli appartenenti alla famiglia di mia nonna, tutti Buggi, tutta gente che mi va da un bel, ma un bel vero, Maurizio, Giuseppino Pugli, che esiste, Giuseppino Pugli, che non è il mio cugino, anche lui, campione del pugilato, alla grande. Sì, e anche Babbo, la buon'anima, è la pugile. Cavolo. I Pugli, ma non saranno i mazzindaggi, per caso? Sì. Quindi sono tutti i fotti da nonna, tutti, dunque sono i miei cugini. E allora tu sei parente di miei moglieri? Può darsi anche, non c'è da meravigliarsi. Sono una famiglia grandissima, o Natale, grande veramente, per cui no, non c'è problema. Ma metto Maurizio da lì, esce dalla palestra che c'è da lì via Mulani, caldo, dalla torre stava scendendo, Maurizio Pugli, no? Ed era ancora caldo, era nella mentola. Passa lì vicino al mercato e c'erano quelli dell'edicola, che c'è ancora l'edicola, tutti gli amici di quelli, erano 5 giovanotti. È passata la sorella di Maurizio, e cioè mia cugina, prende uno di questi ragazzi, trova e la tocca. Ah, caspita, si gira lei e dà un colpo di borsetta in faccia, le dà. E in quel preciso istante arriva Maurizio, se ne accorge Maurizio, era con la borsa della palestra a tracolla, era, mette la borsa per terra, dico, ma sei così, tu non ci crederai, Natalie, erano 5 giovanotti, e anche ben piazzati, tutti e 5 li ha messi a capo, tutti, con i catti per terra, alla fine li stavo ammazzando, io ho fatto lì, ma questo si mette nei guai, l'ho preso io dalle spalle, l'ho preso per e gli ho legato le braccia, ma lì basta che lo stai ammazzando, che te lo vedi, esci giù, e tutti che hanno toccato mia terra, la speranza l'ho toccato, glielo faccio vedere io questa gente, ma sussa però, Natalia, ma veramente sussa dell'altro mondo, non ho mai visto un picchiere così forte. E non podia manco duccarli, Edu, vendere un bugilato, mi lo sai che se lo denunciavano finiva in galera. Ed è per quello che l'ho bloccato io, perché c'era anch'io lì, il fotomacello, no, lì davanti al mercato. Ha detto basta, adesso tutti quanti qua di terra. E sì, gli se non si devono permettere di toccare mia sorella. Dai, era per uscita dal lavoro questa ragazza, basta lì più imbecille, cioè davanti a questi, e l'hanno toccata. Caspita, mai l'avessero fatta, ti hanno accusato da lì. Tu non ci crederai, a colpo l'uno, mi dà lì, a colpo l'uno. Come lo posso immaginare? Lo pugno così al là. Angelo mi avrà detto, a pugno l'uno vari, come ti dico di lo pugno vari in terra? Perché lui sa, il pugno e poi sa picchiare, sa dove devo picchiare. Poi ancora caldo, credo che era appena uscito dalla palestra, che aveva appena finito l'allenamento, aveva. Era ancora caldo lui là. Ti hanno ascoltato dagli amici, e uno era quello dell'edicola con gli amici suoi, adesso non so se c'è sempre lo stesso lì all'edicola, quello che vende i giornali, e dunque lui ti hanno ascoltato dagli amici, vai, infatti sempre glielo ricordo, Mauri, attentamente, già me la metto di giù, ma gli hanno ascoltato dagli amici. Infatti, li ha stesi tutti e 5, una cosa, guarda, impressionante. Non ho mai visto una persona picchiare così, ma di una velocità, una cosa estrema. Vabbè, c'era la scuola e lui era pugilatore, faceva anche gli incontri, per cui sapeva come difendersi, no? E anche tu, i su Buddi che mattessi, avevano so cosa è parente di Issi, chi su che poi c'erano carattrezzi, chi su una macchinetta, e io la giudice davvero, non era mai essere signor più, Fudelli. No, sono presenti, tutti quanti arrivato il bugilato, tutti. sia i pescivendoli, sia che i macellai, tutti i ranti hanno fatto lo bucinato, tutti, gente che la moca se ne è sempre cavata, hanno fuori di Maiolino e di Piluccio, che è il grossista della carne, che compra lui come grossista, compra la carne e poi la prende a tutti i banchi delle macellerie del mercato, no? Quello è Piluccio, che prima ce l'aveva lui, il padre ce l'aveva Zio Gavino, che poi Zio Gavino era mio cugino Matteo, ma io lo chiamavo Zio Gavino perché era dell'età praticamente di mio padre, io ero ancora un ragazzo e dunque no, l'ho sempre chiamato Zio Gavino e così fin quando lui è morto l'ho sempre chiamato Zio Gavino, ma in realtà era mio cugino o Natalino. E Giuseppino che si vendeva la carne di cavallo, visto non era un cugino di mia moglie. E Giuseppino che non è il mio cugino. Se lo vuoi vedere Giuseppino, basta avvicinarti all'angolo di Via Rosello, di Via Rosello, in Chivi, un pari a Salvatore Bintore, che è stato essere pugile, c'era Medellin in Chivi, facendosi quattro chiacchiere, tutte le mattine mancava bene. Lui è lì perché ormai Giuseppino è in pensione, Giuseppino abita a Monte Bianchino, no, con una villa in Chivi, non è indifferente, già lo sai. Mo vi lo so, conosce a tutti, conosce in Chivi. A Giuseppino lo stesso lo vedevo in Foggia di Mazzeddu, al signor Pintore a chi non lo conoscevo, chi era in mia madre sarà di signor Pildu. A bello di un po' come. Chi su di Luca Rattrezzi, chi su Budiche, chi su una macchinetta crudente. Tutta gente che ha fatto pugilato Natalia e Ludico sanno come si devono difendere, come devono giostrare. Sono persone quelle che si fanno veramente rispettare e poi è gente che non ha paura, tutta gente seria, tutta gente in gamba, uno meglio dell'altro, non ve ne so delinquenti in questa famiglia, assolutamente no, tutti, uno meglio dell'altro, però che sta attento non lo mortificare, non lo si scappa che sennò gli dà ragione, ma io parlo di chiunque di loro. Sono tutti così, cosa ti vuol dire? Perché i lai, tutta la famiglia, tutti i bugili erano, Gianni, Emanuele Ginco, Luvradetto mi manda ancora, chi suira è in cura con me addirittura, guarda, tutti i bugili, Luvabu non era bugile ma stessi. A me lo fai così, sì. Angelo Rai era un uomo forte, buono. La moglie Elio Matteo, il campione italiano, è bugerato, non è popolo. Tutti quanti, tutta gente forte, gli altri sono buoni. Suppensa che Angelo Rai è il cognato di mio cugino in primo grado, è stato bandito in una, no? Per cui lo conosco io, ho nata lì a Puglia. Perché Ginco non lo conosco, Ginco è il nipote di una mia cugina praticamente, che purtroppo è separata dal marito, però diciamo che hanno sempre buonissimi rapporti, non c'è problema. Sì, infatti, conosco tutta la famiglia io. Signor Angelo era professionista, buro. Certo, Angelo era un professionista, come lo era Angelo Piu, come era Salvatore Pintore e tanti altri, io li ho conosciuti tutti. Salvatore Pintore, tanti erano malati di Taglieio, dove abitava mamma, noi abitavamo al secondo piano e Salvatore abitava in piano terreno, al piano terra. Dunque, conosciuto Angelo, giocavo a palloni, era Salvatore quando era Yamano, io lui ha una decina d'anni di più di me, forse anche 12. Anche lui aveva la passione per il calcio, nonostante che era un professionista del pugilato, e a volte facevamo una partita così tra tanti amici. Lubazio, Lubazio. Io era il periodo che giocavo, ero anche allenato al calcio, ma infatti tutti vedevano perché non le facevo toccare pallone. Però Salvatore si sa, era uno che mi conosceva benissimo e io conoscevo benissimo a lui. E te lo sto dicendo, abitavamo nella stessa casa, nello stesso palazzo, dai. E dunque lui al pian terreno, io al secondo piano, dove casa di mamma, in poche parole. non mi ricordo come si chiama di nome, va.